Biblioteche, ultima frontiera. Inchiesta sui presidi culturali nelle periferie. Biblioteche, ne abbiamo indagato la storia, il ruolo anche e sempre più sociale che hanno, le traversie che hanno affrontato e i processi, talvolta politici e finanziari, che in qualche misura le ostacolano. Vogliamo concludere questa inchiesta sulle biblioteche guardando al loro futuro, alle prospettive che hanno, a come possono reinventarsi per collegarsi sempre più ai nostri tempi e ai bisogni delle persone. In realtà, una buona fetta di questo lavoro è stata fatta, ad esempio sul digitale. A Bologna, per dare qualche numero, il rapporto fra un certo calo dei prestiti e la disponibilità di materiale online è riscontrabile anche dai dati in forte crescita della biblioteca digitale, la Media Library Online, che offre al pubblico l'accesso a risorse digitali di varia natura, come ebook, abbonamenti a quotidiani e periodici online, audiolibri, musica e video. I collegamenti alla Media Library Online del nostro territorio infatti sono passati da 87.865 del 2012, primo anno del servizio, a 236.627 del 2016. I prestiti di ebook, per fare un altro esempio, sono passati da 4.757 nel 2012 a 21.770 nel 2016. Ormai il patrimonio digitale delle biblioteche online è consistente. Gli ebook disponibili per il prestito ammontano a 25.714 titoli, con un aumento di 4.000 titoli solo nell'ultimo anno, mentre i quotidiani e i periodici consultabili sono 6.632. Com'è nato il percorso digitale? Ce lo racconta Maria Chiara Corazza dell'Istituzione Biblioteche. Noi abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto alla fine del 2010, ci è stato presentato dalla società Horizon, che è quella che ha lavorato sulla piattaforma Media Library assieme a un gruppo nutrito di biblioteche della Lombardia. Quindi loro ce l'hanno presentato alla fine del 2010 e noi abbiamo comunque lavorato alla progettazione, anche a cercare di capire quali potevano essere le biblioteche più interessate a lavorare con noi su questo progetto, e quindi tutte le biblioteche pubbliche della provincia di Bologna. La provincia allora esisteva ancora e quindi il percorso è stato parallelo assieme a noi. Quindi la piattaforma è attiva da gennaio 2012. Quali sono i vantaggi della libreria digitale che hanno fatto crescere esponenzialmente questo servizio? La biblioteca digitale offre agli utenti una biblioteca aperta 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, accessibile da qualunque posto uno si trovi, non bisogna ricordarsi la scadenza del prestito, non bisogna rinnovare la tessera, quindi per coloro che hanno una vita attiva molto impegnata è sicuramente di aiuto rispetto alla biblioteca fisica, che per forza di cose ha dei limiti fisici, appunto. Ha comunque riscontrato un interesse anche in persone non più giovanissime, cioè persone che comunque magari durante la loro vita lavorativa non avevano affrontato l'informatica, diciamo, gli strumenti informatici così, in modo così approfondito, e che una volta andati in pensione o avendo più tempo si sono voluti aggiornare, e quindi noi sicuramente abbiamo anche molti utenti non giovanissimi. Le opere presenti in catalogo sono native digitali o digitalizzate? Noi acquistiamo attraverso la mediazione della piattaforma, quindi di coloro che lavorano direttamente alla piattaforma, titoli che sono prevalentemente digitalizzati in un secondo tempo, insomma, quindi trasformati in digitale. In altri casi si tratta di risorse invece native digitali, sicuramente. Uno dei grossi temi che si è posto nella creazione di una libreria digitale è stato, ancora una volta, il tema del diritto d'autore. Come singole biblioteche o come singoli sistemi bibliotecari non avremmo avuto la forza, nemmeno il tempo, le persone, per poterci dedicare a una contrattazione con i singoli editori, su questioni così complesse. Poi i diritti d'autore sul digitale sono ancora più complessi del diritto d'autore tout court. Il fatto di aderire a questa piattaforma ci ha salvato la vita in un certo senso, ci ha sollevato da un compito inaffrontabile per noi. Per continuare a crescere, il servizio digitale ha però bisogno anche di luoghi fisici. La crescita, se vogliamo, dipende molto dalla promozione che riusciamo a fare, anche partendo dalle nostre biblioteche fisiche, insomma. È sicuramente un complemento alla lettura cartacea. Il ruolo che le biblioteche possono avere nel settore digitale, però, non è solo virtuale, ma anche fisico, come ci spiega Antonella Agnoli, assessora alla cultura del Comune di Lecce, consulente del Ministero proprio in tema di biblioteche e autrice di diversi libri sul tema, tra cui Le piazze del sapere, biblioteche e libertà. Il web, internet, ha aperto una piazza democratica pazzesca, no? Perché tu puoi accedere a una quantità di contenuti, libri, film, musica, fotografie, che erano immaginabili fino a poco tempo fa. Il problema è come ci si arriva, e quindi tutti quelli, noi abbiamo una popolazione anziana e gli anziani non usano facilmente queste tecnologie. E poi un po' per tutti c'è il problema che una volta che tu hai anche utilizzato queste tecnologie, hai iniziato ad utilizzarle, quando non sai come cercare i contenuti giusti per te. Quindi la biblioteca deve diventare un enorme laboratorio che facilita l'accesso ai contenuti, che ti aiuta. I bibliotecari sono dei facilitatori oggi, no? Per il ruolo sociale che le biblioteche svolgono, però, non si può pensare che tutto si sposti sul digitale. Dunque, alcune sfide per il futuro riguardano anche i luoghi fisici, come osserva Adriano Bertolini, coordinatore delle biblioteche di quartiere di Bologna. Quando mi si dice modello di fronte a, è che i modelli sono un momento da ridefinire, da ridiscutere, perché sono cambiati pubblici e il problema vero che esiste in Emilia come nel resto del paese, in alcune zone in maniera drammatica, in altre in maniera meno consistente, è il cosiddetto, quello che con un termine un po' sociologico viene chiamato non pubblico, coloro che per diversi motivi non impattano, non entrano, non hanno rapporti con noi. E questo è credo che sia un po' la sfida del futuro, portare altro pubblico dentro le biblioteche. Secondo Antonella Agnoli ci sono delle ragioni ben precise perché le biblioteche debbano ripensarsi. Soprattutto nel nostro paese è diverso nel caso della public library anglosassone. Le persone, un po' in tutta Italia, in particolare in una parte d'Italia, il centro-sud, ma non solo, attribuiscono alla biblioteca solo la funzione di luogo di studio, di luogo per pochi, di luogo solo dei libri e quindi di luogo dove la maggior parte delle persone in fondo non ci vanno perché non si sentono parte di quel luogo. E tra l'altro questo è un processo che non sta avvenendo solo per le biblioteche, ma sta avvenendo per i musei, sta avvenendo per tanti luoghi della cultura che, se vogliono cominciare ad avere anche i pubblici che normalmente non ci vanno, devono ripensarsi. In realtà alcune biblioteche hanno già in sé i semi per un cambiamento, come sottolinea Miriam Ridolfi, volontaria della Biblioteca Lame. Ci sarebbero le prospettive di ampliare il concetto di biblioteca, di ampliarlo nella direzione del biblio multiplo. Così intendo per biblio multiplo, può essere un modo per attirare l'attenzione, ma io intendo che la biblioteca potrebbe diventare sempre di più, se lo volessimo, un centro proprio di aggregazione culturale. Non c'è più soltanto la forma del libro, che si sa che tra l'altro nelle giovani generazioni non ha certamente lo stesso posto, pur continuando ad averlo, che aveva anche solo negli anni 80. Adesso ci sono le nuove tecnologie, ma proprio per questo allora la biblioteca secondo me dovrebbe aprirsi a queste novità, che sono le novità che arrivano in teatro, per esempio. Adesso c'è il teatro di strada e allora forme teatrali che sono sarebbero una risorsa enorme per le nostre scuole, come si vede per chi le pratica. E poi per esempio nei confronti della musica, perché non rispondere in qualche modo alle domande inespresse degli adolescenti? E quindi essere nel territorio quel presidio che, pensando ai bambini e agli adolescenti, riesce, come dire, a programmare e, per come intendo io, a fare politica non pensando alle votazioni, ma pensando alla comunità che si vuole amministrare. Le sfide che le biblioteche devono affrontare per il futuro sono molteplici, come ci spiega Rosa Maiello, presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche. Una è naturalmente, e fin troppo ovvia, è quella del digitale, nel quale le biblioteche hanno molto da dare, credo, perché essendosi sempre occupate di qualità dell'informazione e di proporre una selezione di documenti, di pubblicazioni all'altezza dei bisogni del pubblico, nel mare magnum dell'informazione in rete hanno un ruolo secondo me importante da giocare, perché le persone possano orientarsi e trovare quello che serve loro, che serve loro per i loro studi di base avanzati, quello che serve per la loro vita, per le informazioni di comunità, per le informazioni su dove andare a trovare una legge, se voglio costruire una casa qual è il regolamento edilizio, dove devo andare a cercare per capire che cosa mi serve. Ecco, le biblioteche sono strumenti che oggi si avvalgono anche molto delle tecnologie, che sia attraverso tecnologie, strumenti, apparati informativi sul web, sia attraverso persone fisiche appositamente formate, aiutano le persone a trovare anche quello che non sanno che esiste, ma che è di loro grande utilità. E poi secondo me c'è questa relazionalità che è proprio insita nella natura di qualsiasi biblioteca, che fa sì che non sia strano che proprio nelle periferie il bisogno di biblioteca sia maggiormente avvertito. Si parla di valori civici, di valori che accomunano le persone intorno a un'idea di civiltà diversa, che sia associato alla biblioteca, credo che sia di grandissimo auspicio per il futuro, e credo che appunto la sfida per il futuro per le biblioteche sia quella di farsi conoscere di più, di far sapere sapere meglio le cose che sanno e quelle che possono fare se vengono messe in grado di funzionare, perché attraverso questo poi le persone arrivano e si appassionano a tutta una serie di attività che appunto insomma sarebbero impensabili senza che ci fosse appunto un centro di gravità come una biblioteca intorno a cui ruotare e aggregare anche iniziative. Le prospettive e la direzione che assumeranno le biblioteche nel futuro non sono scontate. Molto dipenderà dalla capacità e dalla volontà dei decisori, anche politici. Antonella Agnoli, autrice del libro Le piazze del sapere, biblioteche e libertà, suggerisce che lo stesso nome biblioteca dovrà essere superato. All'estero ormai tutte le nuove biblioteche si chiamano con tipo questo Doc One che hanno appena aperto ad Aarhus e che in questo momento forse è la biblioteca più innovativa, le famose Idea Store di Londra e anche la famosa mediateca voluta da Jack Lang negli anni 70. Come se il termine biblioteca non fosse più sufficiente per definire tutto quello che vi accade dentro dal punto di vista non solo della trasformazione tecnologica ma dal punto di vista delle attività culturali, e questo è un termine che non è sufficiente per dire tutto quello che vi accade. Proprio per il profondo legame con il territorio in cui sorgono e per i bisogni che esse assolvono, le biblioteche dovrebbero trasformarsi in piazze del sapere. La piazza dei saperi in fondo è diventato uno di questi modi per definire la nuova biblioteca. Piazza del sapere è un luogo nuovo, è parte dall'idea della piazza, un po' quelle piazze che non ci sono più, no? Quelle piazze dove ti trovavi a chiacchierare, a ragionare sul mondo, a criticare i tuoi governanti, a non solo l'agorà ma anche proprio la piazza, il mercato, lo stare insieme, eccetera. Alcune piazze lo sono ancora, altre in realtà hanno perso molto questa funzione perché ci sono le macchine, perché la gente ha meno tempo, perché la nuova piazza, ed è questo che a me preoccupa moltissimo, è diventato il centro commerciale. Allora bisogna bisogna proporre dei luoghi che abbiano le caratteristiche della piazza, di un certo tipo di piazza, che quindi è il sentirsi bene, ci passano tutti, nessuno viene giudicato, ci puoi fare tante cose diverse. Quindi l'idea della piazza è sia in senso un po' più come il luogo, l'agorà, sia nell'essere alternativa a quelli che sono i nuovi luoghi, purtroppo, dell'incontro. Oggi, la domenica pomeriggio, dove vai? La domenica pomeriggio vai al centro commerciale, vai all'IKEA. Ecco, io vorrei che i cittadini la domenica pomeriggio andassero in biblioteca. Le piazze del sapere, dunque, possono essere un baluardo pubblico e gratuito per una vita non mercificata, un'alternativa al considerare i cittadini dei consumatori, il cui valore viene valutato solo per la capacità di spesa. Vista la tendenza delle amministrazioni pubbliche ad autorizzare la costruzione di nuovi centri commerciali un po' ovunque, una risposta culturale, pubblica e gratuita rappresenta una forma di resistenza. Ovviamente deve essere una piazza che propone tante attività di tipo differenti, perché l'Italia è un paese dove si legge poco, ha pochi consumi culturali, forse bisogna proporre dei luoghi, esattamente come hanno fatto in fondo i centri commerciali, dei luoghi che siano molteplici, dove tu ci vai magari perché vuoi vedere un film, ma contemporaneamente trovi tutti i libri legati a quel film, tuo figlio può ascoltare delle storie che vengono lette, tua moglie può ritrovarsi con le amiche a leggere un giornale, a fare l'uncinetto, a bere l'aperitivo. Cioè bisogna creare dei luoghi che siano molto più attrattivi e che siano però attrattivi avendo dentro delle attività culturali. Le biblioteche sono gratuite, quindi sono per tutti. Le biblioteche sono un luogo di democrazia, no? Proprio in questo essere per tutti. Io credo che sia il luogo in assoluto più neutro che noi abbiamo tra i servizi che una città può offrire ai suoi cittadini. In biblioteca ci puoi andare senza avere nessun tipo di bisogno specifico. Quest'idea di essere un luogo della democrazia per tutti, gratuito. Le biblioteche nella società contemporanea sono rimaste uno dei pochissimi luoghi di democrazia. Perché continuino ad esserlo, però, occorre che rispondano ad un requisito. Le biblioteche possono essere tutto questo ed altro ancora, a una condizione però, che i cittadini siano coinvolti nella loro progettazione, siano coinvolti nel pensarle, anche nella loro trasformazione. Io credo che non sia più sufficiente fare operazioni di questo genere, come mettere in piedi una biblioteca, trasformare una biblioteca, se non sono i cittadini che ci aiutano a farlo, che ci dicono come la vorrebbero. Questo significa che diventa una parte della loro vita, diventa anche la loro casa, diventa il posto dove si sentono protagonisti. La nostra inchiesta termina qui. Nel ringraziarvi per l'attenzione e l'ascolto, vi lasciamo con le parole di Rosa Maiello, presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche, che ci ricorda qual è, alla fine, lo scopo di questi presidi culturali. L'obiettivo fondamentale di tutto ciò è quello di formare cittadini, supportare la capacità dei cittadini di farsi delle opinioni, di creare e di costruire la loro vita in maniera indipendente e con spirito critico e capacità di osservare il mondo che li circonda.